House Belvedere. DJ Ugly 2006. Non cerco molto, voglio solo stare bene. E volo con il ritmo perché è scritto nel mio gene. Voglio rigare dritto perché so che mi conviene. Ma non riesco a stare zitto che c'è un pazzo che mi tiene. Gente per bene, non mi paga l'affitto e teme. Ma il mio problema è circoscritto a chi mi spreme. Mi faccio le mie storie con chi timbra il cartellino. E alle 9 del mattino c'è già vino e panino. Tipo falla semplice, il mio passato è complice. Carezze con la pomice, decifra questo codice. Dritto contro logiche, seguirò il mio indice. Se chiedono com'è, faccio ok con il pollice. Più tempo passa, più fai fatica a reggere. È un mondo da correggere, in cui devi competere. E io non voglio perdere, ma neanche partecipare. Eppure se sparisco adesso è uguale. La faccio semplice, te ne puoi pure accorgere. Elimino il problema ancora prima del suo sorgere. Critico il sistema che mi vuol fare correre. Ma sono un tipo semplice, sto tempo deve scorrere. Le luci si abbassano, i led si colorano. Le mani che applaudono, i flash delle macchine fotografiche che si accendono. Mi dimentico, stringo il mio microfono in un pugno, sono carico. L'adrenalina sale ai massimi livelli. E tutto quello che c'è fuori qui non conta più niente. Conta solo cosa prova la gente. Se emana vibrazioni buone allora si sente. Musica dal cuore e dalla mente. Telecamera registra me attraverso la lente. Pure se l'impianto è scadente, seminiamo dalle casse qualche cosa di importante. Un pezzo di me, un pezzo di anima. Ascoltala, apprezzala, rispettala. Passala, raccontala, copiala, vendila. Accecato dalle luci sopra un palco qua. La faccio semplice, te ne puoi pure accorgere. Elimino il problema ancora prima del suo sorgere. Critico il sistema che vi vuol fare correre. Ma sono un tipo semplice, sto tempo deve scorrere. Belvedere resta un caso complesso. Pure se fatta semplice ti lascia perplesso. Email col mio file compresso. Scarica adesso, avrò la fama solo dopo il decesso. Lirico spesso, immagini non danno un nesso. Tra i margini che mi han concesso, risento di pretese in eccesso. Ehi, uomo, cazzo, come cazzo son messo? La faccio semplice, te ne puoi pure accorgere. Elimino il problema ancora prima del suo sorgere. Critico il sistema che mi vuol fare correre. Ma sono un tipo semplice, sto tempo deve scorrere. La faccio semplice, te ne puoi pure accorgere. Elimino il problema ancora prima del suo sorgere. Critico il sistema che mi vuol fare correre. Ma sono un tipo semplice, sto tempo deve scorrere.